9 in punto. La politica nel tunnel. Però a me mi sembra che questi partiti qua, tutti e tre, stanno giocando con le figurine. Te ne do due, me ne dai una, te ne do tre, te ne do due. Che la piantano e dire, lei non siamo qui mica a vendere le noccioline. Voi siete lì per noi, non per voi. Ma fate qualcosa in fretta, perché l'Italia sta morendo. E io sono uno di quelli. Si gioca ancora con le figurine. Buongiorno cari ascoltatrici e cari ascoltatori e benvenuti a 9 in punto. Noi invece anche oggi cerchiamo di parlare di cose serie. Parliamo di questo decreto che è stato rinviato. C'erano molti problemi dentro questo decreto per consentire il pagamento da parte della pubblica amministrazione alle aziende dei debiti pregressi. Mi fa notare Costantino su Twitter, che scrive al mio account Simone Spetia, dice: uno Stato che ha bisogno di un decreto per pagare i debiti è già finito. Beh, insomma, difficile non essere d'accordo con un'affermazione di questo genere. L'hashtag che abbiamo scelto oggi su Twitter è Discrediti. Se volete scriverci potete usare anche quello, oppure appunto scrivere al mio account. Poi c'è l'800240024. I problemi di questo decreto quali erano? Innanzitutto che era troppo farraginoso nelle procedure, troppo farraginoso anche nell'attuazione legislativa. A quanto riporta oggi il Sole 24 Ore, prevedeva un decreto di 9 articoli che prevedeva 10 decreti attuativi provvedimenti dirigenziali, direttoriali, insomma le solite complicazioni del processo legislativo italiano. Poi chissà che cosa sarebbe successo in Parlamento con tutto questo. Ci sono state molte perplessità da parte delle aziende. Si è chiesta tra le altre cose una compensazione diretta tra i crediti che si hanno nei confronti della pubblica amministrazione e i debiti che si hanno con il fisco. Lo sapete, ne abbiamo parlato ieri, c'è un impegno preciso da parte di alcuni esponenti, tanto del PDL quanto del PD, perché si è inserito questo elemento, magari direttamente sul modulo F24. Oggi non ospitiamo politici, oggi abbiamo deciso di fare una trasmissione solamente con le aziende alle quali lo Stato deve i soldi. Carlo Noto Ladiega, imprenditore e amministratore delegato del gruppo Gesenu, buongiorno. Buongiorno signor Spezzi. E buongiorno a Fabrizio Chines, presidente del gruppo SIFI, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Dunque, iniziamo da Carlo Noto Ladiega. Ci racconti innanzitutto brevemente che cosa fa la sua azienda. Sì, la mia azienda opera nel settore del ciclo dei rifiuti. In alcuni casi tutto il ciclo, in altri casi solo raccolta e trasporto, in altri casi solo smaltimento. Opera, è un'azienda privata, una SPA partecipata ma privata, e opera essenzialmente in Umbria come partenza, ma poi nel resto d'Italia, in Sardegna, in Sicilia e anche all'estero. È un'azienda, è un'azienda grande, no? Di grandi dimensioni. Se c'è una classifica delle private in Italia, noi siamo al secondo o terzo posto a seconda degli anni. 1200 dipendenti, se non sbaglio? Sì, sul territorio nazionale. Sul territorio nazionale. Anche attraverso le collegate. E poi avete anche dipendenti all'estero? Sì. Quanti? Quanti e dove? Un grosso appalto al Cairo, e quindi siamo sui 6.000 dipendenti al Cairo. Quindi appunto un'azienda di grandi dimensioni, fatturato? 100 milioni, consolidato 140. Quanto vi deve lo Stato? Lo Stato in Italia ci deve fra i 50 e i 60 milioni, no, non è che c'è un'imprecisione, è che continuano a esserci dei movimenti molto strani anche in questi pagamenti. Cioè? Cosa intende? Cosa intende? Che ci sono promesse che domani mattina ti danno dei soldi e poi l'indomani invece non accade niente. Dove nasce questo credito nei confronti dello Stato? Ci racconti un po' la storia. Ma guardi, intanto c'è un discorso diffuso, no? Sul territorio italiano, grosso modo, oggi le aziende pubbliche e private, parlo anche delle cugine pubbliche, vantiamo un credito di circa 5 miliardi, circa 2,7 nel settore dei servizi, cioè raccolta, trasporto, spazzatura, eccetera, e 2,3 per quanto riguarda lo smaltimento. Questo è molto diffuso, e si collega, mi scusi, la puntata sulla TARES, al problema TARES, che ci preoccupa altrettanto rispetto ai mancati pagamenti, perché la TARES è un problema che bisogna individuare bene. C'è un aspetto economico, cioè un aggravio dei costi per il cittadino, i famosi 30 centesimi, e quello lì ci preoccupa come cittadini, ma alla fine, come ha detto bene ieri Del Rio, vanno tutti allo Stato. Quello che preoccupa il sistema delle aziende è l'aspetto finanziario, perché la norma attuale prevede che i cittadini paghino all'inizio di agosto, il che significa fatturare ad agosto e stare senza denaro, stare senza risorse per 7, 8, 9 mesi, il che porterebbe le nostre aziende al baratro, visto anche il sistema creditizio italiano sul quale non... Sì, tant'è vero che Del Rio a questi stessi microfoni ieri ha detto, insomma, se lo Stato non riesce a rinviare la nuova tassa all'anno prossimo, quantomeno l'anticipi, e qualcosa è uscito fuori ieri, perché dice così almeno ci entrano i soldi e siamo in grado di pagare la raccolta rifiuti, perché sennò non siamo in grado di pagare la raccolta rifiuti. Allora, veniamo però alla sua storia, voglio sentire che cosa è successo, perché il problema è con la Sicilia in particolare, mi sembra di aver capito. Poi ci sono delle punte di diamante, che sono il Lazio, che è indietro di circa 300 milioni, ma la Sicilia, che negli anni 2000 decise di fare un piano rivoluzionario, in parte anche moderno, affascinante, di dividere tutta la Sicilia in 27 ATO, cioè in 27 settori, e bandire delle gare. Questo coinvolse logicamente tutte le imprese italiane, perché lì il sistema è privato, e quindi abbiamo partecipato a queste gare con entusiasmo. Il mio gruppo se ne ha aggiudicato due, una nell'ambito di Catania e una nell'ambito di Messina. Abbiamo cominciato a lavorare e, per fargliela breve, abbiamo accumulato debiti per più di 50 milioni. Che è, lo ricordo, scusi se la interrompo, lo ricordo, ho raccontare quale fosse il fatturato dell'azienda all'inizio, per chiarire bene, parliamo di una cifra che è praticamente metà del fatturato, cioè avete debiti con la, cioè crediti con la Sicilia per metà del vostro fatturato. Prego. Devo dire che, a parte le intimidazioni che abbiamo subito poi sul territorio, ne parlo io che sono siciliano d'origine, quindi non è un'offesa, ma bisogna dire anche questo, a parte che quando svolgiamo il servizio e noi compiamo un atto tutti i giorni, e quindi non è che abbiamo fatto, come si può fare un'autostrada, l'abbiamo fatta male oppure l'abbiamo interrotto i lavori e ce ne siamo andati. A parte che per interrompere questo flusso di soldi non abbiamo potuto farlo immediatamente, perché sennò saremmo stati denunciati. L'abbiamo fatto con le regole e nonostante questo io sono denunciato per interruzione di pubblico servizio. A parte che abbiamo anticipato magari soldi per l'ecotassa, per il contributo alle province, insomma abbiamo pagato gli operai, abbiamo pagato i carburanti, a parte tutto noi non siamo riusciti a scappare via, soprattutto da Messina, prima di aver accumulato questo enorme debito. Da quant'è che non vi pagano la Diega? Guardi, noto, è ben il primo pezzo, non ci pagano praticamente. La prima transazione è stata nel 2006 e non ce l'hanno data dopo la transazione. Abbiamo transato, il che significa che abbiamo già ceduto sul campo delle cifre non indifferenti, pur di arrivare, e qui mi collego alla certificazione, no? Perché alla fine uno dice, va bene, dammi una certa cifra, me la certifichi, io vado al sistema bancario, il sistema bancario mi anticipa. Perché dietro a tutto questo c'è una parte positiva, che la regione Sicilia, sia con Lombardo che adesso con il presidente Crocetta, si è impegnata ad anticipare queste somme e a rientrare di queste somme via via dai comuni, però con il solito ciclo vizioso che fa sì che tu vai in banca portando queste leggi, portando questi regolamenti, queste circolari, e la banca non ti anticipa. E quindi, se poi a questo aggiungi che le banche, per altri motivi a tutti noti, non mi soffermo, hanno diminuito comunque i crediti alle imprese, queste due rette il rischio di essere strozzati è fortissimo. Fabrizio Chines, lei è in un altro settore invece, quello biomedicale, quello medico. Un quadro breve dell'azienda, dimensione del vostro credito nei confronti dello Stato. Sì, la società che si occupa di dispositivi medici, una società di recente incorporazione, fattura circa 2 milioni e mezzo l'anno e ha circa 35 dipendenti. Il fatturato è per l'85% immobilizzato in crediti verso il Servizio Sanitario Nazionale, cioè oltre 2 milioni di euro al 31/12/2012 risultano come crediti verso clienti su un totale fatturato di 2 milioni e mezzo. Direi che questo è un... Quindi pari al fatturato sostanzialmente? 84%. 84%. Ma come fate a sopravvivere, Chines? Ce lo chiedono anche gli ascoltatori e ce lo chiedono anche a proposito dell'azienda di Noto La Diega, della Gesenu. Dicono, ma insomma, come fa un'azienda a sopravvivere se il 50% del fatturato ce l'ha fuori come credito verso lo Stato? Figuriamoci voi che ci avete fuori l'84%. Nel nostro caso specifico, essendo parte di un gruppo più ampio che si occupa sempre di prodotti farmaceutici e dispositivi per l'oftalmologia, riceve finanziamenti dalla società controllante, ma chiaramente il problema che noi viviamo è quello, penso comune a molte aziende, di essere tra l'incudine e il martello, cioè di uno Stato che paga con moltissimo ritardo e di un settore creditizio che non supporta più le aziende per ragioni di sistema e a volte anche endogene rispetto alla singola società o al singolo gruppo. Nel nostro caso specifico, appunto, finanziamo da altri settori questa attività al momento. Con l'hashtag discrediti ci state scrivendo alcune cose. David dice: mio padre mi disse quel che vuoi, ma lavora col privato e non con la pubblica amministrazione, bisogna essere squali per non essere strozzati, saggezza di padre, ci scrive appunto David. Maria Teresa Pesenti scrive: attendere un decreto per poter incassare i propri sacrosanti crediti, dove sono finiti i diritti civili in questo paese? Anche là, come dire, ha perfettamente ragione. Noto La Diega, mi spieghi un po' come fate a sopravvivere? Guardi, anzitutto, come ho detto all'inizio, grazie a Dio ci sono tanti comuni che rispettano i contratti, pagano in tempo, faccio i nomi di Perugia, di Sassari, di Fiumicino, di Viterbo e di tanti altri, e quindi quello fanno una base solida e abbiamo dei contratti a lungo termine che ci consentono anche con le banche di avere dei rapporti, pur in questo periodo per noi e forse anche per loro, questo lo dovremo capire, forse sarà la storia a dire, anche per loro disastroso e difficile. Questo è il primo modo. Poi ci sono i soci che logicamente intervengono quando c'è bisogno e sostengono l'azienda avendo delle spalle robuste. Certo. Però questo non può durare in eterno. Non può durare in eterno questo. Primo non può durare in eterno, ma penalizza anche le aziende. Certo. Cioè, quando in parallelo poi alcuni partiti politici o movimenti politici dicono bisogna fare la raccolta differenziata, bisogna pulire bene, bisogna far quello, bisogna far quell'altro, ci vogliono investimenti. In questo momento fare investimenti è un problema. Certo. Noi l'anno scorso abbiamo iniziato 3 nuovi cantieri grossi in Italia, grossi per il sistema privato, perché nelle grandi città in Italia ci sono le aziende ex municipalizzate, ma abbiamo dovuto fare investimenti per 18 milioni per partire a Viterbo piuttosto che a Sassari, piuttosto che a Fiumicino, e questi investimenti ormai le banche te li fanno penare, bisogna fare dei sistemi, non più come prima che tu portavi il contratto e te lo negoziavano, bisogna fare delle cose molto, molto più complicate, e quindi uno alla fine, invece di espandersi, invece di stare sul mercato alla pari con le aziende francesi, con le aziende tedesche, sta sul mercato come un poveraccio che deve pagare prima le ecotasse e i contributi provinciali che non sono soldi suoi, li tira per i cittadini, sì, le deve dare e non riesce ad avere quello che gli è dovuto. Sì, sì. Anche perché il nostro è un sistema dove c'è una grande massa di manodopera, dei grandi costi per carburanti, manutenzioni, eccetera, e non è che c'è molto margine, già sono margini molto, molto limitati. Ci scrive Barbara, sono l'amministratore delegato di una multinazionale tedesca, su Twitter sempre, l'hashtag è discrediti, con enormi crediti alla pubblica amministrazione italiana, inevasi da anni, poi non ci lamentiamo di come ci giudicano, e anche questo è vero. Angelo De Cesare, buongiorno. Buongiorno. Titolare buongiorno. Dell'impresa Costruzioni De Cesare, non leggo tutto, ingegner Urrico SRL, sì, di Chieti, vicepresidente dell'ANCE. Benvenuto ai nostri microfoni, quindi anche un altro settore. Buongiorno. Però prima di sentire lei voglio sentire anche un ascoltatore, Leonardo, che ci chiama da Firenze, 800240024 per intervenire in diretta. Leonardo, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno a lei e ai suoi ospiti. No, io sono rimasto basito. La vostra trasmissione stamani mattina è estremamente interessante e non avevo ancora sentito parlare né alla radio né alla TV di questi debiti enormi che lo Stato ha. E sono basito per questo. Parliamo di un costo della macchina statale di 850 miliardi di euro. A questo costo adesso saltano fuori una cifra impressionante di debiti dello Stato stesso. Cioè, quindi i soldi che mancano sono ancora di più. Dobbiamo sommare il costo dello Stato. Lei dice in realtà la macchina statale costa ancora di più, insomma, di quanto non appaia. Questi debiti sono stati accumulati in quanti anni e continuano ad accumularli. Ma la vostra sigla è perfettamente coerente. Sbrigatevi, stiamo morendo. Sì. Cioè, siete lì a giocare con le figurine. Basta. O torniamo alle urne o fate un governo istituzionale del presidente, chiamatelo come volete, ma sbrigatevi. Intanto Leonardo, intanto ci accontenteremmo di avere un decreto sui pagamenti alle aziende da parte della pubblica amministrazione prima ancora che un governo. 9 in punto. Ed eccoci di nuovo, 800240024 per intervenire in diretta. Discrediti, l'hashtag che abbiamo scelto oggi su Twitter, oppure potete scrivere direttamente a me, Simone Spetia, così insomma vediamo un attimo di cogliere anche qualcosa appunto da Twitter. Grazie a Carlo Notola Diega e Fabrizio Chines per essere stati con noi. Adesso ospitiamo altri due fronti d'impresa. Angelo De Cesare, che abbiamo già salutato, che è titolare di un'impresa di costruzioni e vicepresidente dell'ANCE. Saluto anche Giampiero Calzolari, che è presidente di Granarolo. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Che hanno Granarolo, come tutti, molte aziende del settore lattiero caseario, ancora un altro tipo di problema e riguarda l'IVA, anche in dimensioni veramente notevoli. Però andiamo con ordine e andiamo da Angelo De Cesare. Allora, voi lavorate con il pubblico, suppongo. Che dimensioni d'azienda avete e soprattutto che crediti vantate nei confronti della pubblica amministrazione, verso chi? Noi siamo una piccola impresa, così come il 94-95% delle imprese che costituiscono l'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili ANCE, di cui io ho l'onore di essere vicepresidente con delega alle opere pubbliche. Questo decreto di cui si parla da qualche giorno e che grazie anche al nostro intervento è stato in questa fase rinviato, speriamo che non complichi le cose invece che cercare di dare una soluzione al problema, nel senso che è talmente farraginoso il testo e rischia di sbloccare solo una parte degli 11 milioni di euro già in cassa in comuni, province e regioni e bloccata dal patto di stabilità, ma prevede poi norme inaccettabili che costringerebbero gli enti che vanno in deroga e quindi autorizzati a pagare al di là del patto di stabilità addirittura a non realizzare nuovi investimenti per i successivi 5 anni. Sì. Quindi sì, questo è l'altro problema. Il testo del decreto in effetti ha sollevato molti dubbi, soprattutto tra le aziende, lei ce lo sta dimostrando. Per quanto riguarda voi, come siete messi? Insomma, entriamo un po' nel dettaglio sulla sua azienda, De Cesare. Ma sulla mia azienda noi abbiamo crediti per circa 2 milioni di euro. I ritardi di pagamenti nel settore dei lavori pubblici da parte degli enti locali. A fronte di un fatturato De Cesare, dimensione d'azienda? Di 4 milioni di euro l'anno. Quindi metà del fatturato sostanzialmente. Sì, sì. Noi abbiamo dei ritardi medi nel settore di circa 8 mesi, con punte anche di 2 anni da parte di enti locali. I vostri come sono, quelli della sua azienda? Sono tutti con enti pubblici, in quanto noi lavoriamo. No, dico di che durata, mi scusi, di che durata, De Cesare? Mediamente 8-9 mesi, così come la media nazionale. Mediamente oltre 9, quindi siete nella almeno sì, siete sì, nella media, non siete sopra la media. Come fate a sopravvivere? Ma sopravviviamo con l'aiuto delle banche. La nostra è un'impresa storica, secolare, ha 150 anni di vita, con me alla quinta generazione, quindi le banche ci conoscono la nostra serietà, i rapporti sono talmente consolidati che comunque abbiamo la possibilità, a differenza di tanti altri colleghi che sono stati costretti a chiudere, di far ricorso al credito da parte degli istituti bancari, ma spesso, non avendo una tempistica certa nel pagamento, le banche, non nel nostro caso ma nel caso di tanti colleghi, io sono presidente anche dell'ANCE della territoriale di Chieti, non hanno questa possibilità di ricorrere al credito e sono costretti a chiudere, pur vantando ingenti crediti da parte della pubblica amministrazione. Noi siamo l'unico paese in cui le imprese di costruzione pagano gli interessi sui crediti che vantano alle banche. Pensa un po', ci scrive Paolo: qualunque cifra torni alle aziende, tra un anno saranno bruciati da tasse e mancata competitività. Insomma, speriamo di no, speriamo che qualcosa si muova anche da questo lato. Allora, Gian Piero Calzolari, presidente di Granarolo, qual è il problema delle aziende del vostro settore? Ho capito che c'è un meccanismo per cui finite in credito IVA, che è un meccanismo estremamente contorto. Cioè, riesci a spiegarcelo semplicemente? Sì, in realtà è contorto per le conseguenze, ma è semplice nella sua costruzione quotidiana. Noi compriamo materia prima, latte in questo caso, a un'aliquota, e lo vendiamo a un'aliquota diversa. Come noto, non decidiamo noi quale aliquota, ci adeguiamo alle aliquote previste per legge, quindi compriamo latte a un'aliquota del 10% e vendiamo invece latte al consumo, alla grande distribuzione in particolare, a un'aliquota del 4%. In questo modo abbiamo sistematicamente, strutturalmente, un credito IVA importante, ecco, che sta diventando qualcosa di incredibile. Ci può dire di che dimensioni è per la vostra azienda? Noi abbiamo chiuso il bilancio 2012 a 78 milioni di credito IVA e abbiamo incassato nei primi mesi del 2013 il credito del 2011, ma noi, per il giro d'affari che abbiamo, produciamo mediamente 15 milioni di credito a trimestre, quindi siamo tornati nuovamente a 75-76 milioni di credito da capo. I tempi come sono da quel lato, dei mediamente? Dunque, io adesso sto guardando qua un appunto dei miei uffici, 459 giorni, un'enormità di tempo, sì. Perché poi, come già ci dicevano altri imprenditori prima, perché poi blocca gli investimenti, blocca assunzioni, blocca tutto, blocca il credito anche, no? Conto, oddio, per voi magari questo problema non c'è, vista la dimensione aziendale, no? Perché ovviamente noi poi per la vita, quindi l'attività dell'azienda, abbiamo bisogno di denaro, e quindi ci dobbiamo approvvigionare presso gli istituti di credito. Come noto, non è gratuita l'operazione, noi abbiamo dovuto fare, tenga conto, abbiamo una posizione finanziaria netta di 160 milioni. Grosso modo la metà è rappresentata dalla necessità di contrarre debiti per far fronte a un credito che non riusciamo ad incassare. Avremmo la metà di esposizione finanziaria, ecco, per capirci. Ovviamente questo ha un costo, vogliamo dire, di un 5% all'anno, insomma, si fa presto a fare i conti, ecco. E comunque sono risorse che sono destinate impropriamente, quindi certo, potrebbero essere usate per altro. È un'impresa importante, ecco, un'impresa, sì, in Italia, di imprese stiamo parlando di una dimensione che corrisponde a un'impresa di media medio-grande anche, medio-grande dimensione anche. E il paradosso è che è un dato strutturale, cioè sarà sempre così. Noi produrremo ogni 3 mesi 15 milioni di credito IVA, quindi occorre un provvedimento non straordinario, strutturale. Negli anni passati abbiamo sempre avuto, però, come dire, non ci, se non eccezionalmente, non ci eravamo mai discostati, che comunque sono enormità, dai 45, 44, 50 milioni di credito. Poi negli ultimi, nell'ultimo periodo, ovviamente, di fronte al fatto che lo Stato non ha disponibilità, la cassa è vuota, però insomma lei dice quelli sono soldi vostri, poi tra l'altro non è esatto, che sono non si tratta neanche, capisco il problema di cui parlava anche il collega prima, a dimensioni catastrofiche, ma diciamo stiamo di fronte a un pagamento, qui no, sono i nostri, cioè non gli dovremmo neanche dare, cioè, li hanno trattenuti e non ce li restituiscono, insomma, non so. Finora aziende, 4 aziende abbiamo sentito, 4 aziende che tutto sommato per un motivo o per l'altro, per la dimensione aziendale, per il buon rapporto con le banche, perché parte di un gruppo più grande come abbiamo sentito poco fa, ce la fanno. Franco Colombini, buongiorno. Franco Colombini invece è stato alla guida e insomma imprenditore di un'azienda che è proprio a partire dai crediti per lo Stato alla fine non ce l'ha fatta. Il tutto poi si va ad innestare in una vicenda giudiziaria piuttosto complessa che tocca anche la follia, se vogliamo, del nostro sistema giudiziario e certe scarse competenze che si trovano. E però io voglio capire come è nato tutto questo. L'azienda si chiama Eurosac. Allora, cosa faceva, cosa fa ancora adesso l'azienda, anche se non è più controllata da voi dal punto di vista fattivo, dal punto di vista dell'amministrazione, e che cosa è successo? Dunque, l'azienda in questo momento è ferma, perché nonostante abbia avuto un concordato approvato dalla Corte d'Appello di Firenze, e il Tribunale non ha restituito l'azienda perché ha fatto ricorso in Cassazione. Quindi in questo momento l'azienda è ferma. L'azienda faceva imballaggi industriali ed era un importante fornitore, tra le altre cose, di aziende estere e anche di importanti imprese nazionali, come per esempio il gruppo Impregilo. Al gruppo Impregilo noi fornivamo nella Campania quel famoso imballaggio che serviva per le ecoballe, che serviva poi, sarebbe servito successivamente per bruciare negli inceneritori in costruzione i rifiuti della Campania. Noi siamo stati fornitori di Impregilo per molti anni, fino a che fine 2007, inizio 2008 avevamo un credito di circa 1.100.000 euro verso Impregilo, che improvvisamente smise di pagare le sue fatture. Questi mancati pagamenti erano giustificati da Impregilo per i ritardi che a sua volta Impregilo aveva dei pagamenti che la pubblica amministrazione nazionale e regionale aveva nei suoi confronti, per cui era in crisi di liquidità e non poteva pagarci le fatture. Colombini, a quel punto che cosa succede? A Napoli la vicenda la conosciamo, la gestione dei rifiuti passa ai commissari, insomma, passa ai commissari, è vero. E a questo punto, infatti, nel 2008 noi, ben più contenti di fornire addirittura la presidenza del Consiglio dei Ministri, perché tale era la destinazione della merce, presidenza del Consiglio dei Ministri, noi abbiamo continuato a fare queste forniture ancora per parecchio tempo, fino a accumulare un ulteriore credito di circa 550.000 euro nel 2008. Questi crediti non sono mai stati pagati. Quelli di Impregilo successivamente, attraverso le crediti aggiuntivi, azioni giudiziarie, scambi eccetera, ce l'abbiamo fatta. Il credito invece nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri tuttora è impagato, quindi 4 anni dopo addirittura. Addirittura a un certo punto la pubblica amministrazione ci chiese il DURC per pagarci. Noi presentammo regolarmente il DURC e anche con questo non fummo pagati. La dichiarazione unica di recupero crediti. Avete di fatto girato questi crediti alle banche, dato che sono risultati non pagati, questi hanno stretto i rubinetti, sì, ciao azienda. Diciamo. I nostri rating di Basilea 2, naturalmente, perché chiaramente non incassando crediti, non hanno preso neppure i crediti nuovi che avevamo, perché in quel momento eravamo in forte espansione di fatturato, avevamo avuto un fatturato maggiore del 15% rispetto all'anno precedente e quindi avevamo bisogno di smobilizzare i nostri crediti, che non furono smobilizzati perché i vecchi non venivano pagati. Sentiamo qualche ascoltatore e poi ritorniamo su De Cesare, su Calzolari e anche su Colombini, perché se abbiamo il tempo, da Colombini vorrei sentire anche il resto della storia, perché si compone anche di una vicenda giudiziaria abbastanza complessa che forse però riusciamo a riassumere brevemente. Germano ci chiama da Udine, buongiorno. Buongiorno, io sono amministratore di una piccola azienda, siamo in 13 persone, facciamo ascensori e lavoriamo anche con il pubblico, purtroppo. Dico purtroppo perché ultimamente la cosa sta degenerando. A parte che per fatturare 30 euro ho un impiegato impegnato a fare il DURC, i flussi, ogni fattura. Cioè non è che io magari all'inizio del contratto, all'inizio dell'anno, io ogni tre mesi trasmetto il DURC, che poi l'amministrazione dovrebbe richiedere a lei. Dobbiamo fare tutta una serie di procedure, di documenti. Parlo per una fattura di 30 euro. Poi il pagamento sarà quando l'amministrazione paga. Che tempi avete mediamente, Germano? Ci sono dei enti comuni o amministrazioni provinciali che pagano 60-90 giorni. Che già è qualcosa. Ci sono certe che siamo a oltre due anni e neanche si degnano di rispondere alle mail, ai solleciti. Noi fortunatamente siamo un'azienda controllata da un gruppo americano, abbiamo un sistema di controllo del credito che ci permette di non andare a banche, però ci sta schienando perché il credito chiamato a rischio viene messo a riserva, una parte del profitto viene messa accantonata fino a quando non si incassa il credito. Oggi adesso la macchina dello Stato ha inventato un'altra cosa, che secondo me in certi versi, in certi settori può andare bene, esempio il mercato elettronico, no? Per l'acquisto delle siringhe è chiaro che deve essere, è un prodotto unico, la siringa è fatta così, 20 ml, 50 ml deve costare X, ma nei servizi, io parlo di ascensori, la cosa è totalmente diversa, gli ascensori sono uno diverso dall'altro, con tipologie e traffico diverso. Cioè lei dice nel nostro settore, in settori come i nostri, i costi standard sono pericolosi, questa è la sostanza. Esatto. C'è questo fantomatico listino che tutti vedono, che poi secondo me dovrebbe vedere solo l'amministrazione pubblica, alla fine, per farla breve, io devo dare un servizio di manutenzione, compresa la reperibilità, compreso le chiamate, fino a 20 chiamate comprese, visite mensili, obbligatorie, e oltre le 20 chiamate c'è il limite minimo, sì, di spesa di 100 euro che non posso fatturare per 30 euro, quando ho il costo della manodopera, compreso la sicurezza, che è a 45 euro all'ora. Grazie Germano, anche per la sua testimonianza. Una pausa per la viabilità. 9 in punto. Avete sentito anche il racconto di Germano da Udine, che ci ha chiamato all'800 24 00 24. Giampiero Calzolari, presidente di Granarolo, un delirio la presentazione del documento unico di regolarità contributiva ogni volta che devi fatturare 30 euro. Sì, sì, è vero. Una roba da pazzi. Funziona così anche nel vostro settore? Noi andiamo, come dire, abbiamo un ufficio che sistematicamente si preoccupa, ovviamente, visto anche la dimensione della cosa, di inoltrare sistematicamente richieste di rimborso, di sollecitare, di seguire tutte le istanze che possono in qualche momento, come dire, decidere lo stanziamento. Mi piace sollevare anche questo paradosso. Recentemente, opportunamente, diciamo noi, lo Stato è intervenuto con il famoso articolo 62, imponendo alle aziende del settore dell'alimentazione, insomma del settore agroalimentare, il pagamento dei prodotti a 30, se sono freschi, o a 60 giorni. e così pure come la grande distribuzione è obbligata a pagare ai produttori e ai trasformatori a 30-60. Cioè uno Stato che impone al privato di rispettare dei tempi di pagamento, no? E se non succede ci sono sanzioni. Devo dire che è stato un provvedimento che ci ha messo più in sintonia con il resto dell'Europa, e poi paradossalmente invece non fa fronte ai propri pagamenti. Insomma, questo è un po' un paradosso ulteriore. Margherita ci chiama da Firenze, buongiorno. Buongiorno. Senta, no, ho chiamato per dare la mia piccola testimonianza. Allora, noi lavoriamo in un'azienda tessile, si lavora nel distretto Frasese e, come si sa bene, abbiamo insomma vissuto e stiamo vivendo un periodo di crisi. Ora, io mi trovo a lavorare con delle aziende che esportano e quindi mi fanno lettera d'intento e io fatturo senza IVA. Io tutti gli acquisti che effettuo li effettuo con IVA al 20%, sicché attualmente io mi ritrovo una settantina di mila euro di credito IVA che non posso riscuotere assolutamente. Allora, io mi sono trovata a ricevere una cartella pazza per la quale ho dovuto versare dell'Equitalia, per la quale ho dovuto versare un terzo di ciò che mi era stato richiesto. Fatto ricorso, io ho vinto. Però a me questo terzo, diciamo, che non è tanto, però per la mia realtà sono tanti soldi, circa una quindicina di mila euro, io ancora non li ho rivisti. Ora, io mi sto facendo una domanda forse banale, però noi abbiamo circa una ventina di dipendenti. Allora, il loro stipendio viene fuori dall'azienda, dal lavoro che facciamo. I contributi che loro pagano con il loro lavoro vengono fuori dal lavoro che si fa, diciamo, dall'azienda. Perché mettere i bastoni tra le ruote alle aziende che cercano di lavorare invece di aiutarle magari a poter concorreggiare anche con aziende estere? Invece ci mettono i bastoni fra le ruote e noi non riusciamo ad andare avanti, ci troviamo veramente soffocati. Margherita, devo dire la verità, è quello che ci chiediamo tutti. Sentiamo anche Marco che ci chiama da Roma, buongiorno Marco. Buongiorno a voi a tutti. Dunque, brevemente, io ho una piccola aziendina di servizi, aiuto gli stranieri che vengono in Italia per lavoro, insomma parlo di manager eccetera, a fare tutta una serie di pratiche che in Italia sono un po' pesantine e quindi si affidano o come clienti, insomma manager di multinazionali eccetera, una piccola realtà, sì. Insomma, vabbè. Ecco, questi qui, quello che mi dicono poi, perché prendono informazioni sul paese quando devono venire nella unit italiana della certa multinazionale, quello che mi dicono è: ma com'è possibile che da voi cose banali come pagare un servizio diventi un problema di Stato? Se loro dicono, noi nei nostri paesi, e vengono dal Belgio, dalla Germania, dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra e quant'altro, Francia, non esiste una problema, cioè voi avete delle problematiche che nel resto dell'Europa, del mondo occidentale, non esistono, ci sono altre problematiche di più. Da voi è una. Questo è il primo aspetto di cui restano basiti ed è complicatissimo da spiegarglielo. Il secondo aspetto che dicono è, vabbè, ok, ma ci sarà qualcuno responsabile? Cioè la prima cosa che ti dice uno straniero, perché hanno un sistema politico, sociale, culturale, soprattutto formativo dei ragazzi fin da scuola, ci sarà un responsabile localmente. Cioè loro dicono, non può accadere, lasciamo per gli Stati Uniti, certo. Dove si fa una cavolata, ma in paesi vicini a noi come c'è qualcuno a cui scrivere, a cui telefonare, a cui rivolgersi, a cui dire, capisco che il problema è anche quello, Marco. Siamo quasi in chiusura, prima di chiudere richiamo Franco Colombini, così ci dice in un minuto e mezzo com'è finita la vicenda della sua azienda. Brevemente, Colombini. Sì, è finita non bene per ora, in quanto che in seguito a questo innesco di questa crisi di liquidità, noi abbiamo provveduto a fare una ristrutturazione aziendale attraverso un aumento di capitale sociale, attraverso accordi col sistema bancario che ci ha rifinanziato, che perlomeno aveva promesso di rifinanziarci, ed abbiamo presentato uno dei primi concordati in continuità aziendale italiani, credo che sia stato il primo in Toscana addirittura. Abbiamo presentato questo concordato in continuità che prevedeva il pagamento quasi integrale di tutti i creditori ordinari e di tutti i privilegiati naturalmente, e abbiamo presentato in tribunale e abbiamo ottenuto le maggioranze stabilite, anzi un'ampia maggioranza dei creditori è stabilita dalla legge per l'approvazione di questo tipo di concordato. Purtroppo però il tribunale di Lucca ha ritenuto di non omologarcelo e ha dichiarato il fallimento della società. Noi abbiamo fatto ricorso in Corte d'Appello, la Corte d'Appello ci ha dato ragione, ha omologato il concordato e naturalmente noi aspettavamo di poter riprendere il nostro lavoro, anche perché nel frattempo la curatela aveva continuato con esercizio provvisorio l'attività aziendale. Mentre invece bisogna aspettare la Cassazione. Purtroppo il Tribunale di Lucca non ha accettato il verdetto della Corte d'Appello e ha presentato ricorso in Cassazione, e presentando ricorso in Cassazione ha impedito il ritorno della proprietà nell'azienda e ha impedito il proseguimento del lavoro. Attualmente l'azienda è ferma da circa un anno, anche una cooperativa di operai che si era costituita per prendere in affitto questa azienda e continuare a lavorare, quindi a mantenere in funzione gli impianti, non è stata accettata dal tribunale, per cui in questo momento è completamente ferma. E questo abbiamo praticamente dall'inizio della crisi in poi abbiamo perso 300 posti di lavoro, abbiamo danneggiato i creditori, perché penso che se non va avanti il concordato con quello che succede oggi con i fallimenti probabilmente non avranno nemmeno i soldi. La devo interrompere, Colombini, grazie a Franco Colombini, Giampiero Calzolari e Angelo De Cesare, l'ho fatto parlare poco e mi perdoni. Grazie come sempre a Gianmarco Ferronato in regia, Franco Piantanida in assistenza, Alessandro Marco Tulli in redazione, le ragazze del centralino che poi si scordano sempre di scrivermi chi c'è al centralino, eh. Grazie a tutti voi per l'ascolto, ci sentiamo domani. Ricordati! Mancano 87 giorni all'aumento dell'IVA. Però a me mi sembra che questi partiti qua, tutti e tre, stanno giocando con le figurine. Te ne do due, me ne dai una, te ne do tre, te ne do due. Che la piantano e dire, non siamo qui mica a vendere le noccioline. Voi siete lì per noi, non per voi. Ma fate qualcosa in fretta, perché l'Italia sta morendo e io sono uno di quelli. Radio 24. La passione si sente.